Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Marco Mantovani e Lockman, gli orologi che nascono all'Isola d'Elba, di Alessandra Scaglioni. C'è un'azienda all'Isola d'Elba che produce orologi che vanno in tutto il mondo, finiscono al polso delle star e fanno innovazione. Questa storia nasce da una piccola società che faceva design per aziende di pelletteria. Marco Mantovani. Noi partiamo nel lontano 1985 con la missione di disegnare oggetti sia di pelle che di altro genere, però nel settore pelletteria. In realtà in questo campionario di oggetti di design c'era anche un cinturino in pelle per orologio che ci entusiasmò e andammo alla Fiera di Basilea a farlo vedere alle marche di orologi. La cosa ebbe subito successo e così ci innamorammo del settore dell'orologeria. Diciamo che dall'86 ci siamo concentrati sul settore orologeria, prima come designers per le grandi marche, e quasi tutte svizzere, e poi piano piano anche come produttori di orologi conto terzi, quindi come si dice in private label, cioè con le marche di altre aziende, fino a quando abbiamo iniziato a produrre anche degli orologi con il marchio Lockman. Ma c'è l'idea di sviluppare anche un proprio prodotto con un proprio marchio, che piano piano prende forma, in un primo tempo convivendo con la produzione in conto terzi. È stato esattamente così. L'entusiasmo di fare un marchio proprio è arrivato molto presto. In realtà, dopo alcuni anni di lavoro con alcune marche svizzere, un'importante casa svizzera aveva richiesto una nostra partecipazione aziendale, quindi eravamo diventati anche in parte svizzeri. Il nostro prodotto inizialmente marcato Lockman era un orologio assolutamente distintivo e non confondibile con altri, aveva delle parti in radica, la radica è un materiale tipico della macchia toscana, la radica di Erica, con cui si fabbricano anche le pipe per intenderci, però ecco, era un prodotto che non andava a disturbare nessuna delle linee che sviluppavamo per la nostra clientela, quindi non c'erano gelosie tra i nostri clienti, in quanto anche noi avevamo questo orologio molto particolare. Poi si concretizza la trasformazione di Lockman in azienda. Nel 1996, quindi circa 10 anni dopo la fondazione della società, invece c'è stata questa decisione importantissima, che era quella di abbandonare la produzione conto terzi e concentrarci su una produzione a marchio Lockman, facendo anche dei prodotti molto più in concorrenza con quella che era il nostro lavoro principale, e questo sicuramente è stato un salto importante anche come investimenti, come responsabilità. È stato veramente un rischio aziendale calcolato fino a un certo punto, perché uno fa le cose sull'entusiasmo, credendo in ciò che fa, ma in effetti è stato molto molto molto difficile, soprattutto dal punto di vista economico, finanziare anche tutto quello che riguardava il marketing, la vendita, rispetto a quello che invece produrre conto terzi. La decisione è quella di concentrare la produzione all'Isola d'Elba, di identificare uno spazio di mercato molto specifico e diverso da quello dei grandi marchi di orologi. Tra l'altro questo ha coinciso con uno spostamento radicale di tutti gli asset produttivi più importanti all'Elba, perché prima eravamo dislocati un po' all'Elba, un po' a Milano, ancora oggi siamo dislocati un po' all'Elba, a Milano, ma diciamo che abbiamo deciso di puntare sull'Elba come realtà produttiva, di puntare su un marchio che identificasse molto il paese d'origine, cioè l'Italia, quindi Lockman Italy, e puntare su una forte differenziazione del design del prodotto, che esprimesse anche uno stile di vita poco metropolitano, poco conformato, esprimesse allegria, esprimesse voglia di vivere anche all'aria aperta. Quindi i nostri orologi cercano di dare una forte immagine di allegria e di vitalità. Diventare un'azienda comporta una totale riorganizzazione, la necessità di aggiungere alla produzione anche il lavoro sulla distribuzione, sulla comunicazione e l'immagine del marchio, ed ovviamente il reperimento delle risorse economiche. I primi anni sono stati da capelli dritti dal punto di vista economico perché innanzitutto dovevamo ampliare la sede della società qua all'Elba, abbiamo rilevato uno stabile con grosse spese di ristrutturazione, adattando tutte le nostre esigenze in questo luogo e facendo in modo che ci fosse spazio anche per l'area marketing, l'area commerciale eccetera, quindi già quello è stato un grosso investimento. Inoltre si trattava di inventarsi un sistema per andare sui vari mercati internazionali con una campagna pubblicitaria, una forma di comunicazione per comunicare questo marchio assolutamente nuovo. Noi avevamo una certa notorietà in realtà nel mercato degli addetti ai lavori, perché ci conoscevano avendo disegnato prodotti per altri, però non eravamo assolutamente conosciuti dal pubblico. C'è stato un grossissimo sforzo da tutti i punti di vista a cui abbiamo cercato di ovviare con tanta creatività, tanta inventiva e prodotti molto forti. Noi siamo due soci, io e Giuseppe Francesco Pea, e in quel periodo abbiamo veramente sofferto finanziando l'azienda in tutti i modi. Lui tra l'altro ha un'esperienza industriale anche maggiore della mia in vari settori, per cui mi ha dato una grossa mano anche in quella fase per riuscire così a proporci sul mercato in modo forte senza grossissime esposizioni finanziarie, però i primi anni sono stati davvero difficili. Il problema dell'identificazione del prodotto e della notorietà del marchio viene affrontato puntando su italianità, design e innovazione. Conoscendo molto bene il mercato, perché avevamo lavorato per tante marche svizzere, sapevamo quali erano appunto gli spazi che potevamo ricavarci e il concetto di abbinare l'italianità del prodotto con un design molto innovativo, molto forte, uscire dagli schemi tradizionali dell'orologeria svizzera, sempre grigio, sempre nero, e tecnologie e materiali che erano sempre gli stessi da secoli. Ecco, abbiamo preferito fare qualcosa di diverso, molto più energico, molto più basato sulla ricerca e sviluppo, sulla tecnologia di produzione, sui materiali innovativi, carbonio, titanio, alluminio, puntare molto su qualcosa di nuovo che sul mercato non ci fosse, e anche nello stile in cui ci presentiamo ai clienti siamo sicuramente diversi. Ai tempi ricordo che ci avevano insegnato che per andare a vendere in gioielleria bisogna sempre avere giacca e cravatta. Ecco, i nostri venditori sin da subito si sono presentati in modo decisamente più casual, ma non per questo meno professionale. Noi dobbiamo assolutamente abbinare grande professionalità, che vuol dire non lasciare niente al caso, vuol dire soprattutto qualità dalla produzione ai rapporti, la qualità è fondamentale, soprattutto in un settore come questo, ma facendolo secondo quello che è un po' lo stile italiano, molto diverso da quello svizzero. Tra i diversi momenti di passaggio ce n'è uno che segna il cambiamento e che fa capire a Marco Mantovani che il salto era avvenuto. Ricordo avevamo ancora dei rapporti con aziende che per finanziarci vendevamo il nostro design, ma puntavamo sul nostro nome. Ricordo che c'era questo articolo molto bello che avevamo disegnato noi, ma che avevamo proposto anche ad altre aziende. Un'importantissima azienda a cui avevamo proposto questo prodotto ci disse di essere molto interessata al prodotto, ma non essere disposta ai minimi contrattuali che noi prevedevamo. Io ricordo che mi sottoposero questo contratto, che era un contratto importantissimo per noi, ma che sentivo non sufficiente per quelle che erano le aspettative che avevamo su questo prodotto. Uscii da questa azienda molto nota, molto importante, senza firmare il contratto, con questi signori un po' in disappunto, ma tornai a casa e dissi: puntiamo, facciamo noi questo prodotto con il nostro nome, e andò benissimo. Immediatamente lo vendemmo ad alcuni negozi americani molto importanti, che a loro volta lo misero al polso di varie star, da Jennifer Lopez, Sharon Stone, tanti altri iniziarono a mettere i nostri prodotti, e nel giro di pochi mesi, devo dire, il nome Lochmann fu un po' sulla bocca di tutto il settore, perché c'era questa grande esplosione di richiesta e le cose andarono da quel momento decisamente meglio. La storia dell'azienda va poi avanti con crescita anche all'estero e la partecipazione di una finanziaria, il rientro dei due soci fondatori e un riposizionamento dell'azienda sui mercati di riferimento. Dunque, Lochmann poi ha avuto una storia particolare. Siamo stati in seguito corteggiati da varie aziende che volevano prendere una partecipazione, siamo stati partecipati da una banca che aveva grandi ambizioni sulla società, ma forse aveva una mentalità molto finanziaria e meno industriale. A un certo punto nel 2008 abbiamo preso una decisione, io e il mio socio storico, abbiamo ricomprato le nostre quote e siamo ripartiti da un progetto più domestico. Volevamo essere molto forti in Italia, abbiamo tagliato alcuni mercati esteri che sono tutt'oggi comunque per noi un obiettivo importante per il futuro. Abbiamo tenuto invece i mercati dove eravamo più conosciuti, dove volevamo mettere delle basi solide, quindi Italia, Stati Uniti, Giappone, Germania e poco altro. Oggi diciamo che abbiamo raggiunto il risultato di essere nuovamente forti e molto conosciuti nei nostri mercati diciamo tradizionali e abbiamo pensato di ampliare i mercati, per cui ecco, stiamo iniziando ora a entrare nei cosiddetti nuovi mercati tipo Russia, Cina. Entro fine 2013 contiamo di essere nuovamente presenti su una ventina di mercati internazionali. Ricerca sui materiali, soprattutto innovativi e biocompatibili come il titanio, totalmente anallergico, o le nuove leghe d'acciaio. Brevetti legati alla meccanica. Ecco alcuni degli aspetti su cui l'azienda sta puntando. Eravamo fino a poco tempo fa soci di maggioranza di una società che si chiamava Materie Future, dedicata completamente alla ricerca su materiali per orologeria. L'abbiamo poi inglobata in una fase di ristrutturazione della società, abbiamo poi fondato SIO, Scuola Italiana di Orologeria, un'altra società che aveva come funzione, e tuttora ce l'ha, è quella di ricercare la perfezione invece nei meccanismi, nella formazione del personale, in tutte quelle che sono le fasi qualitative per l'evoluzione tecnica dell'orologio. Nella storia di Lockman c'è un attore fondamentale che è l'Isola d'Elba. La sede dell'azienda è in un posto bellissimo tra il mare e la macchia toscana. Potrei anche parlare di grandi visioni di marketing, forse certamente c'è anche una motivazione di marketing che ci ha tenuto qui, ma la verità è che io sono nato all'Elba, amo questo posto, ho capito che si poteva lavorare con pregi e difetti, ma magari meglio che da altre parti. Però è questione caratteriale, io essendo nato qua mi trovo tanto bene, ma ci sono anche persone che poi si sentono un po' isolati, invece per noi isolani essere leggermente isolati così è anche in fondo un modo per guardare l'universo che c'è fuori dalla giusta distanza, come vedere un quadro, no? Un bellissimo quadro bisogna guardarlo da una certa distanza, troppo vicini se ne perdono i contenuti, si perde il significato. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.